Friuli nel mondo. 115ª trasmissione dedicata agli emigrati. Ricordando Jacopo Tomadini. Quale miglior modo di onorare un musicista se non quello di eseguire musiche sue facendole conoscere ad un pubblico più vasto possibile? E quest'anno, 80° anniversario della scomparsa di Monsignor Jacopo Tomadini, l'illustre compositore friulano cui si deve la coraggiosa riforma della musica liturgica, è stato degnamente ricordato con una manifestazione musicale di grande rilievo nella città che ha l'insigne maestro dette i natali, Cividale del Friuli. Il suggerimento è partito da un entusiastico ammiratore dell'arte di Jacopo Tomadini, dal maestro Rodolfo Kubik, di Ronchi dei Legionari, rientrato alcuni mesi or sono nel suo Friuli dall'Argentina, dove egli ha fatto conoscere ed apprezzare i brani più belli del ricco patrimonio musicale lasciato dal nostro conterraneo 16 lustri or sono. Ascoltate ora dalla Resurrezione di Cristo, per soli, coro ed orchestra, l'introduzione e il solenne finale affidati all'esecuzione di componenti l'orchestra del Teatro Verdi di Trieste e della Sinfonica Udinese e dei cori San Lorenzo e Dino Salvador di Ronchi dei Legionari e Giuseppe Schiff di Chiopris Viscone, diretti dal maestro Rodolfo Kubik. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.